Sono tutti al mare già. Mare sto? Io non sono andato. Io ho cercato di lavorare, cioè, mi ha aiutato. Vado dal mare. E vabbè. Un po' no, io ho questo cerametiere. Adesso devo decidere se è per di calzare, metto di calzare su qua. Così almeno non mi passa la sabbia. Ma con l'acqua c'è, no? Sì, ma te la fa quanti anni? C'ho 5 anni che vuole quanti? Immagino. La stai curando, sì, ti l'hai fatto controllare. Curando, non sai quanti dottori l'hanno vista, chirurghi, l'ortopedico, l'ho vista, mi ha tolto tutte le sfide, perché a me mi è venuta, ho messo il piede su un fondo di bottiglia con la punta, no? Mi è entrata dentro e il moppetto l'ho tolto, poi l'ho premuta e mi è uscita un'altra sfida. E poi sono andato dalla dottoressa, mi ha chiamato subito il centro, quello che fa i vaccini per l'antitetanica, e mi hanno mandato subito a fare l'antitetanica. Poi da lì mi hanno detto che era meglio controllarlo il piede di farmi un'ecografia, cosa, l'ho fatto l'ecografia, ero pieno di schicce. Praticamente è stata attaccata una natura. Sono andato in chirurgia e me la stava guardando, stava facendo l'ecografia e con una pinzetta stava cercando di chiudere, poi ha detto che si è spostata e non lo vedeva più. Dice no, forse è meglio che lo faccia l'ortopedico perché lì ci sono nervi, ci sono ossa, eccetera, eccetera, e roba più di ortopedico. Sono andato all'ortopedico, mi ha svuotato tutto il piede, mi hanno operato, mi hanno svuotato tutto il piede sotto. Quasi tutto è guarito, solo una parte che l'ha lasciata per drenare i liquidi, quella parte lì non è mai guarita, si è formato un callo, ha fatto una sacca sotto e questo callo si chiude e poi si spacca di nuovo. Anche tu c'hai i piedi a bicca? Vabbè, purtroppo è così la vita, bisogna sopportare. Sono 5 anni io che mi curo questo piede, ho provato tutte le medicine, prova con questa, prova con l'altra, me l'ha fatto chiudere questa medicina, questa spray che mi ha dato, Yalo Silver Spray si chiama. Ma la notte me l'aveva fatto chiudere, poi però si spacca il callo e sotto rimane vuoto, capito? Sì, ciao, dai, ci sentiamo, buona serata. Sì, sì, ho capito, Cristian, ho capito. Vabbè. Io me l'ho fatta alla doccia, adesso l'ho fatta anche al cane. E se è stato fermo, fermo. Ciao, Cristian, ciao. Indovina. Ciao già, mi stavo ascoltando, saluta l'amico che caspita arrivava a 6 oscillanti di segnale, però radio 1, non lo capivo proprio. E oggi vabbè, ho fatto la spesa, nel pomeriggio ho cucinato così, insomma, dunque meglio di ieri, dai. Giornata più piena. E poi mi ero scottato 2 giorni fa, che quando ero andato al mare, mi ero messo un latte solare, ma era poco, fattore 10, blando mi, e ho dimenticato di metterlo sul viso, sembra una aragosta in viso, fate le immagini. Sei andato solo con papà? Non ce la fa mamma, bisogna essere in 3, cioè ci vuole una che l'accompagni in spiaggia e uno che parcheggi, perché il parcheggio non sempre lo trovi subito, magari devi aspettare un po'. Sempre Platamona, no? Il mare dei poveri. Però si stava bene, era discretamente ventilato, l'acqua come sempre calda lì a Platamona. Bello, ho mangiucchiato qualcosa lì. per esempio domani anche mi sarebbe piaciuto, però domani c'è troppa gente, tra oggi e domani è un carnaio, è meglio andare ancora nei giorni feriali, da lunedì al giovedì, anche venerdì, però sabato e domenica soprattutto è un incubo. Lo so, poi andarci in macchina è un casino, è preferibile sempre da solo, prendere la moto e andarci in moto, è più partito. Ma io sono comodone già, cioè io quando vado mi porto, vabbè, l'ombrellone è ovvio, perché io la maggior parte del tempo sto un po' all'ombra, o in acqua o all'ombra, del sole, del diventare nero un po' come le frega, quindi vabbè, ombrellone, la sedietta, la spiaggia e il lettino, cioè non mi piace mettere più l'asciugamano sulla sabbia che c'è a volte ha odore di brutto, metto il lettino pieghevole, tipo Lido, ce l'ho tutte e tre blu, blu l'ombrellone, blu la sedietta e blu il lettino, tipo inclinare lo schienale, molto molto comodo. Più lo zaino che comunque io sempre mi porto più roba del dovuto, maschera, pinne, almeno un litro d'acqua quando non sono due, asciugamano, roba da mangiare, ammenicoli vari, beni di conforto potremmo dire, dai. Mi auguro che trovi il parcheggio vicino, perché se ho tutta questa roba è più marocchino, le dispiace. Certe volte lì alla rotonda, no, nel vialone, parcheggia a metà, raramente all'inizio, a metà grosso, però poi ti devi fare il vialone, che comunque all'ombra, devi scendere fino alla spiaggia, poi piazzare la roba, almeno l'ombrellone, spogliarti, piazzare tutto, insomma, è un po' impegnativo portarsi quella roba lì. Tanti anni fa quando andavo in moto mi portavo uno zainetto piccolo, un ombrellino, sai, di quelli mini, quelli piccoli, no? Che hanno il gambo sottile anche, era tutto più miniaturizzato, diciamo. E che a me quando vado, cioè non mi piace portarmi l'asciugamano e buh, è una bottiglietta d'acqua, a me piace portarmi roba. Ma se una volta mi ero portato, sai quegli ombrelloni di una volta che hanno quella copertura per coprire tutto intorno, no? Tipo tenda diventa. E ci avevo micro fornelletto, mi ero cucinato qualcosa velocis da mangiare lì, lo sai, non mi vedeva nessuno dentro. A voi la riconosco, mamma quando eravamo piccoli ci metteva tutti attorno con gli asciugamani, seduti in terra, e ci dava la pasta asciutta, la pittina impanata, tutto quanto ci portava al mare. Ci aveva due recipienti tipo quelli di guerra, quelli d'alluminio che si chiudevano sopra con quella cosa in carne, tipo quelli di usare i militari, per il rancio. Sì, c'è un ombrellone, l'aveva preso mamma qualche anno fa, abbastanza anni fa, e la copertura di lato, ci sono tutti i moschettoni per agganciarlo, no? C'ha gli occhielli, è dello stesso colore del, solo che sai cos'è già? È pesante l'ombrellone, perché non è d'alluminio il gambo, è di quelli appunto in ferro verniciato bianco, il tubo, dai. E poi la copertura pesa, cioè non è roba sottile, è roba abbastanza massiccia. Io l'ho usato una volta, però sai, se devi cambiare il costume in tre vite lo cambi, non devi stare a zuffarti con l'asciugamano, magari tieni i gaggi e rimani con l'uccello fuori. Poi tutto micro fornelletto, micro gavetta, mi ero fatto una specie di risotto, non so come, sai quelle in busta a me. L'ho lasciato raffreddare e me lo sono mangiato lì. Vabbè. Adesso vediamo, poi se trovo qualcuno che va a zona Alghero, perché io guidando non ci vado più a Alghero, mi sarò per le scatole, se guida qualcun altro magari ci andiamo. Vediamo un po' cosa c'è. Peccato che la zona di Alghero l'acqua sia bella, abbia scogli, no? Volendo ti può portare la roba al sub, però è gelida l'acqua già, è ghiacciata. Pensa che avevo freddo anche con la muta integrale, proprio mi si rigidiva la mascella. dal freddo. Pensa che una volta ho presente il boccaglio, no? Che c'ha quei due fermini che vanno dietro i denti. Una volta io dal freddo ne ho rotto uno di quei fermini di silicone morbido, perché col freddo mi veniva a serrare la mascella, capito? E ci vuole fare il bagno. Oh già, puoi alzare la voce appena appena. Ho detto, ci voleva il bite. Il bite? E lo sai cos'è il bite? Il bite, bite, boh, tra l'altro vuol dire morso, ma cos'è? Quella cosa dei pugili. Quello per non morderci la lingua. Il paradenti. Diciamo che lo danno i dentisti quando ti mastichi i denti, quando mastichi i denti di notte e te li rompi, allora ti danno questo bite. Quello lì serve per non stringere. Ascolta, a proposito, l'hai visto il portatile che ti ho mandato? Sì, sì, infatti, però poi sai cos'è, siccome ero al market, non so se ti sia arrivato il messaggio vocale. No, ti chiedevo se l'avevi comprato o se era una foto di repertorio. No, no, foto di repertorio, solo visto, almeno. Quello era bello davvero. Sì, sì, bello, uguale, uguale, identico. Il mio si chiamava Lafayette Dynacom 80, quello era Excalibur, però era identico. Allora, quello non è un portatile, quello era il portatile, con la P maiuscola, telaio di alluminio, attacco microfonico 4 poli, cioè roba da fantascienza, la presa per l'antenna esterna, lo smitterino, l'indicatore di canali a LED, no, col pulsantino, mi pare laterale per non consumare le batterie. È una bella bestia, era come portatile, una bella bestia, e pazienza già, il mio è stato bruciato, il tuo che fine aveva fatto? Quello non me lo ricordo, forse l'avevo venuto, 80 canali era quello lì, 80 canali. Eia, c'era tre versioni, lo sai, c'era il 40, 40 canali, l'80 che era 80 canali, però non mi ricordo se erano dall'1 all'80 oppure se era 40 più 40 sotto. Poi c'era la versione 120 che non aveva 120 canali, ma era 40 canali AM/FM. E quindi sono 80 o sono 120? Come già? Se sono 40 e 40 sono 80, non 120. No, dico, c'era una terza versione chiamata, denominata 120, che erano 40 canali AM/FM. La chiamavano 120 ma non aveva attinenza col numero di canali, diciamo. Ah, ecco, il modello. E comunque era un bel bello, almeno 80 canali. No, ne aveva 80, disegnava proprio, 80 canali, disegnava. Ma soprattutto antenne lunghe, cioè 1,20 m, 1,30 m, tipo un quarto d'onda, ma scusami, un ottavo d'onda dovrebbe essere, no? Full size, grosso modo. Quelle erano antenne, non queste cose super caricate di oggi, vergognoso. Vabbè, comunque anche trovandolo non lo prenderei più perché ormai è... cioè non, portatile non lo userei più. C'ho quelle Maxcom che se ne sta ridendo, a parte che di mamma quello, non vuole venderlo. Ho detto, ma tanto marcisce, ha detto non lo usiamo, no, dice lascialo marcire ma non si vende, è mio quello, non lo devi toccare, mi ha detto. Vabbè, non ricordo il suo, magari che ci tiene. No, io l'ho fatto fuori quello là, l'ho fatto fuori, mi sei guastato, giù mi ha detto che l'avevo mediato, quella storia, vero, non era nemmeno più omologato, c'era l'omologazione dietro, ma non era quella accesa. Quindi ho detto, lo tengo a fare, non lo posso manco dire, è partito proprio, si è bruciato, non so che cosa sia successo, però è partito. E vabbè, ho recuperato la capsula perché era buona. E niente, adesso vi è rimasta l'antenna e gli ho fatto l'attacco PL perché c'aveva l'attacco quello tipo jack da inserire, ci voleva il riduttore, invece l'ho fatto il PL direttamente e adesso si riesco il PL, no, il PL diretto. Eia, oggi non c'è nessuno, è sabato, molti saranno andati al mare, tipo Riccardo sicuramente col padre, col camper, si erano organizzati. Per esempio l'altro giorno ero andato al mare in un giorno feriale, tu fai tre giorni fa, e comunque ho portato il baracchino, no? L'ho montato partendo, proprio appoggiato sul sedile, con un'antenna corta, quella tipo vigili urbani, no? quella col dischetto, la spiralina, lo stiletto, però non avevo un'anima, cioè mi sono accorto che a metà serata, quando tipica ora in cui io torno dal mare, non c'è quasi nessuno, c'era Riccardino, 5 minuti, poi però ho dovuto scappare perché stava facendo roba, è quasi deserto, quindi non ne porto più in macchina baracchino, non ha molto senso, almeno in estate, perché la gente se può va fuori, chi sta lavorando giustamente lavora. Guarda, io ho perso tutte le voglie di metterle in macchina, anche perché ho ordinato quell'antenna a Fusaro, mi ha detto che me l'ha ordinato, gli ho chiamato io, gli ho detto che è arrivata quell'antenna, no, ma l'hai ordinata o no? No, ancora no, che cosa ti aspettate, sono 4 mesi, c'è ragione, però devo fare un ordine grosso, questo e quell'altro, ho detto vabbè, lascia perdere, dici già c'è ragione, stai aspettando molto tempo, hai ragione, dai. Comunque già, sì, stavo, mi pare ieri forse ho sentito il discorso tuo, appunto che eri rimasto scottato da quell'acquisto, però ricordati una cosa già, tu avevi comprato un apparecchio da un venditore sconosciuto, cioè non sai se era affidabile, forse era anche un privato, però quando tu compri da Media Globe, FLQ Elettronica, IEL Elettronica, AM Radio Shop, cioè quelle sono ditte consolidate, non è che ti frega. Poi se non vuoi pagare con la carta di credito del conto in banca, tu ti fai la carta AIP, una qualsiasi carta, una Postpay, una AIP, e tu metti la carichi esclusivamente con quello che devi spendere, capito? Se tu lo ordini, cioè capisco essere un po' prudente, no? Però se le ditte sono conosciute e affidabili, certo non ti frega non ti vanno a fregare per un'antenna, no? E tu in 3 giorni, diciamo 3 giorni ci avresti l'antenna che vuoi, la mini turbo, quella che vuoi. Lo so Marco. Ma sai che mi ha vendicato, Roberto Quadrato mi ha vendicato che da quello che c'è dietro la piazzetta, che tipo il mercatino delle pulci, così là, c'era un'antenna CD con la base magnetica e tutto, la stavano vendendo 15 euro, mi sono andato a vederla, ma secondo me non è CD quell'antenna, è tipo quella dei carabinieri, c'ha solo un giro di molla, no? C'ha solo un giro solo ed è corta 45 cm, 50 cm circa. E praticamente secondo me non è della 27, c'ha il piede di quelli presso fusi, non è nemmeno un piede piazzato da loro, è già preparato. Chi lo sa già, bisognerebbe portarsi un analizzatore di spettro, ma come si dice, un analizzatore antenna, solo che chi ce l'ha non è presto, giustamente. Mi viene il dubbio che possa essere anche qualche antenna ex taxi dei 43 MHz, sai? Quelle antenne, apparati dismessi dei 43 MHz. Dunque io ho fatto la carta AIP, mi trovo bene, posso fare bonifici direttamente dalla carta, mentre prima dovevo andare in banca, fare la fila, poi adesso tutto per appuntamento. Qua la carta AIP base, te la mandano direttamente per posta, cioè non ti devi muovere da casa, tu la chiedi online, te la mandano per posta, per ricaricarla puoi andare o al tabacchino, tramite bonifico, si carica tramite bonifico, oppure alla banca Sella, però stessa storia, solo per appuntamento, eccetera. Fra un po' stanno ampliando i metodi di ricarica, lo potrai caricare alle edicole o ai punti Sisal, quindi è una cosa buona e giusta questa. E va bene, per usi normali, quindi puoi ricevere bonifici come se avessi un conto, puoi fare bonifici come se avessi un conto, puoi usarla come per fare bonifici, come carta di credito, come bancomat, per fare spese nei negozi fisici, in quelli online, come tutte le altre, dai. Va bene, è un peccato anche perché tu hai già la base magnetica, c'hai già, proprio per la LEM, per la turbo, mini turbo. L'importante è che se tu usi la base magnetica, la capota nel punto di contatto sia pulitissima, c'è cioè anche con un panno di cotone, non ci deve essere polvere, perché è anche al fondo della base deve essere pulitissimo. Però una volta soddisfatti questi requisiti, insomma, vabbè, capisco che quando la macchina è nuova c'è... lo so, ma ci sto pensando, dai, perché dico l'antenna ce l'ho giù. Però io non voglio farlo alla cavolo di cane, lo voglio fare bene. Ascolta, per il cavo della batteria ci avevi pensato all'elettrauto oppure sei molto indeciso, visto già? Sono indeciso perché ho visto anche che c'è poca gente, capito? E dico, faccio tutti questi lavori e poi per non sentire nessuno. Un attimo solo che porto le lasagne a mamma, arrivo subito. L'altra macchina l'ho fatto io, capito, l'impianto, fatto bene, tutto fascentato, tutto fatto bene, però c'era il buco dove passava le fili, si vedeva, questa non si vede nulla, è tutto coperto. Eccomi, adesso vado a mangiare anch'io, dai. Sì, l'elettrauto comunque ci mette un attimo a passarlo, perché usa quella sonda, come la cruna dell'ago, no? Infila il cavo, te la fa passare dove passano tutti i cavi che vanno al cruscotto, capito? C'è un gommino intorno che li tiene belli a tenuta d'acqua. È tutto lì. Vabbè, decidi, sì, c'è poca gente, non so tanto. Ma già, è una cosa, adesso si è svuotato particolarmente, come mai? Non si sentono più le ruote che duravano 2-3 ore fino alle 8 di sera. Adesso sono tutti in giro, con questo tempo chiudo che resti a casa. E anche io sto girando, oggi è capitato che non ho niente da fare, perché solitamente io sono in giro la notte, la sera, vado in giro. Quando capita con gli amici, prendo e parto, capito? Portato la pappa, adesso mi dedico. E io no, di notte no, io dopo una certa ora magari un po' mi accendo la TV, mi guardo qualcosa, telefilm, film, oppure roba mia, CD, vecchie videocassette ancora tengono, qualcuna ancora tiene. Va bene, dai, io mangio già, ci sentiamo. Buona serata e buon tutto, dai. Buona carica Marco, ci sentiamo. Io adesso vado che vado per il giornale, se non c'è nessuno spengo tutto e buonanotte. Se magari mi andate a farmi un giro. Quando il carro esce da Plattamona, fammi un giro al fresco. Quella sera si sta bene, la sera rinfresca molto, ancora si sta bene. Io sto temendo il periodo quando ci sarà caldo anche di notte. È presente che c'è quell'alfa che non riesce a dormire, che viene voglia di dormire o in terrazzino o per terra. Sì, stanotte a me mi è successo, stanotte ho dovuto aprire tutte le finestre e non si riusciva a dormire. E anche il cane oggi era un po' irrequieto, infatti gli ho fatto la doccia perché era molto irrequieto. Stava andando e tornando, invece aveva caldo, si buttava in terra. Allora ho preso prima, me la sono fatta io, invece poi l'ho fatta lui. Ciao Gianni, Fabrizio. Ciao Fabri. Aspetta che sei troppo forte. Buonasera. Buonasera, come devo abbassare i miei clienti? Ehi, abbassa, sei un bel forte. Mi hai crepato l'orecchio. Ma abbassa appunto, va meglio così. Sì, meglio. Diciamo che la radio non è chiara chiara. Ho abbassato un altro pochettino, come va, meglio? Ehi, adesso sì. Perché niente. No, ho terminato questo 4.40 e lo sto provando. Capaci com'è, così com'è, per me la regolazione è giusta. Prima era troppo forte. È troppo croccante, dai. Così è ottima. Ottima e abbondante. Vedo che anche il segnale è abbondante, Fabri. Tu sei uno dei pochi che arriva persino oltre di Claudio, lo sai, come se fossi sotto casa. Ci deve essere l'antenna, deve essere che le antenne si vedono con la tua zona. E io ho l'antenna in alto e ho l'antenna da 12, dall'alternato sarà a 15 metri, a 14 metri l'antenna di altezza. E anche qua lo stesso, lui manca, non ti credi sia diverso? Ehi, sì, ottimo segnale, caspita, per essere lì è fortissimo il segnale. Vabbè, signori, dai che mangio, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, vai Fabri. Buona cena, no? Buona cena, ok. No, io fra un po' me ne esco anch'io a prendere un po' di aria, fra un po'. Adesso ho sentito qualcuno e ho provato a entrare perché ho fatto delle prove in banda laterale in 10 metri poco stasera, però non c'era niente, nessuno, e volevo fare delle prove qui. Adesso lo tengo un altro po' in osservazione, che c'è poca gente sul 10, e però voglio prestare a Riccardino questo, che voglio ricontrollarmi il suo. C'è stata che aveva ieri e non andava bene, invece qui l'ha fatto mettere un altro microfono ed era perfetto, mi pare che tale attitudine ha fatto bene. Sì, dipende dalle modulazioni, dalla voce e via. No, io ho questo 440 che ho appena terminato, sia esteticamente perfetto, esteticamente non ha un graffio, è stato rifatto completamente, ha fatto come deve essere fatto, non ha bomboletta, e sfido a riconoscerlo che è stato rifatto. E poi elettricamente l'ho finito, lo sto provando, è un po' di giorni che lo sto provando, poi non ho molto tempo poi alla fine, infatti adesso il secondo come va lo presta Riccardino e così lo uso un pochettino e lo testo e vediamo se prosegue andare bene. Campaga. Va bene, io usavo sempre quello là, quello che tu gli hai messo a mano, sto usando sempre quello lì. No, va benissimo, quello lì va benissimo, è l'ideale per la stazione base. Poi quello ci presta un sacco di modifiche volendo. Ma va bene così Fabio, io mi accontento, va bene così. Se proprio vuoi uscire più forte, basta attaccare 100 watt e lo fai uscire 200 watt, è come se avessi il turbo. Sì, ci sono quei 727 mi sembra, quegli amplificatorini che vanno molto bene. No, questo è bello, adesso l'altro mi ricordo anche l'altro fa così, questo invece è bello perché adesso sono 10-15 watt dal Smith, perché lo Smith è molto preciso, e poi sale, qua, se sollevo un po' di più, voglio un po', e poi riesce a salire quasi 80-90. No, questo va bene, poi secondo me i 440 sono quelli che vanno meglio di tutti gli altri. Solo che hanno sempre questi difettucci, ogni tanto vogliono revisionare, hanno questi difetti. Che chi lo sa fare non gli costa niente, a chi non lo sa fare ogni volta deve stare a portare, aggiustare, fare. Questo dovrebbe essere a posto, questo io avevo, ti me l'ha dato, era non riuscivo a capire, era spento, era tutto, cioè, poi alla fine invece per le ore che gli ho messo sopra sono giusto per passione, perché se no ne valeva la pena. Poi di questi avevo anche un sacco di pezzi di ricambio, quindi ho cambiato il display perché era spaccato. Dentro di tecnica era abbastanza forte, gli ho fatto un paio di controlli, un po' di cosa, gli ho inibito la corrente sul microfono quando sono in ricezione, che è meglio, perché sennò dava un piccolo problema, con alcuni microfoni potrebbe innescare, un po' di cose così, poi gli ho riallineato i VCO, gli ho fatto i VCO quello dei puntini, e poi gli ho rifatti, quindi adesso sono rifatti anche quelli, li ho puliti bene, l'ho riallineato un po' tutto e la radio va bene. Questa è una bella radio, adesso credo che sia una bella radio, infatti stavo pensando di pedalarla un po' a Riccardino, che con questa non dovrebbe avere problemi più di sorta. Anche l'altra gli ho fatta apposta, c'è un piccolo, devo ricontrollare, solo che quando sono vecchie queste radio, se sempre lì, crack. Adesso per esempio il mio 440 l'altro giorno lo stavo usando e ho notato che toccando il volume ogni tanto si abbassa, quindi sicuramente c'è il potentiometro partito e lo dovrò cambiare anche quello. Adesso quando non voglio devo buttare giù il frontalino e lo cambio, dovrei averlo come ricambio, perché dovrei averlo, adesso poi guardo se ce lo dovrei avere, perché è un ricambio particolare che fa un doppio potentiometro, ma dovrei averlo l'originale. Purtroppo con le radio lì c'hanno questo difetto del VCO sempre, dei puntini, con le radio che ho sentito che hanno difetto c'hanno questo difetto. 440 e così, ma c'è 140, difetti, io l'ho avuto, non me ne ha mai dato, quindi. Io l'ho avuto, te lo ricordi, me l'ha allineato tu e lui, poi è andato sempre bene. No, sono radio che vanno bene, per carità, se vanno bene, non è che hanno grossi problemi, è la vecchiaia, no? Io secondo me avete da dirgli altri, 440 è una radio che va bene, se bisogna rifare tutti oppure se si compra e siete sicuri che hanno rifatti, perché non danno da 180 a 200 euro per rifare quel lavoro, ti chiedono, quindi non so alla fine se ne vale la pena comprarlo o che possono andare a rifare, devi essere sicuro che sono stati rifatti, è così se ti togli, ma a te ne stanno girando parecchie che ho rifatto io, sono tutti rifatti, questi due che sono qua, uno a Walter, sono tre che sto pensando, quello che di cosa, di Gian Maria, quello che due un paio che c'aveva, cosa come si chiama, qua di Roberto, e sono tutti rifatti quelli di Lucio. Ma sai cosa c'è? Che questi apparecchi vecchi li fanno una cosa e si rompe l'altra, sono pieni di mille difetti, no? Si aggiusta una cosa, si rompe l'altra, ci devi mettere un bel tempo sopra, questo è il problema. Però rendono, quando vanno bene rendono. Diciamo che vanno bene per qua, perché vanno bene, molto bene in AM, hai capito che altre radio non vanno bene. Diciamo che per chi fa questo uso vanno più che bene, poi fare ascolto perché c'è un'ottima ricezione, poi qualche passaggino da qualche altra parte vanno bene, fanno bene, sono a posto, vanno bene. Io la verità mi trovo molto meglio con i 440, a me il 140 e il 430 non piace, ce l'ho qua il 1430 io, cioè due 440 e un 430 miei, però il 430 non è che mi piace molto, il fatto che non mi piace molto, mi piace più che non ha l'accordatore. Il 440 è molto più completo a me. Sì, quello sì. Ma il 430, quando dice Claudio, è migliore del 440, come esce qua. Lui lo preferisce perlomeno. Se tra tutti quelli che ha, il 430 è quello che preferisce. E vabbè, la questione anche di gusti, di cose. Uno preferisce una cosa, uno preferisce l'altra, ma il 430 lo stai dando. E ce l'ho qua, non so, a Sassari non li voglio dare, la verità, non li voglio dare a Sassari, perché poi ce li ho sempre in mezzo alle balle, prima o poi magari hanno un problema e devi rimetterli in mano, perché ovviamente li metti in mano tu e non ne ho più voglia, non sai le ore che ho passato, sono 15 giorni a presa questi apparecchi, tra questo e l'altro mio, è quello di Riccardino, non ti puoi immaginare le ore che ci ho passato, non ne voglio più sentire, perché se lo do a qualcuno, poi prima o poi io lo so già che se gli dà problemi poi mi devo rimettere in mano io, e non ne ho più voglia. E passi il tempo, Fabrizio. Ne ho roba da fare, anche troppo, e quindi non è che ne ho molta voglia. Adesso poi non ho molto spazio finché non faccio quei lavori, adesso infatti sono un commutatore, ho commutato, ce l'ho sul banco questo, sto usando questo, adesso continuo a usarlo, ho visto che mi ha eliminato anche un altro problema che avevo, adesso lo uso, lo vedo un po' se va bene, poi lo farò fuori, adesso vediamo, però devo essere sicuro che vada tutto bene, devo essere proprio sicuro, e quindi lo voglio usare, diciamo, sono intenzionato a chiedarlo a qualcuno che lo usi, almeno vedo un po' se va bene prima di, perché io non ho tempo di usarla questa radio, ho capito, già non ho tempo di usare le altre, immagino se ho tempo di usare questa. Dai, apriti un laboratorio, così abbiamo un tecnico a Sassari che non viene manco uno, che aggiusta questi apparecchi. Perché è anche economico aggiustarli, ci butti tanto di quel tempo che non so se ne vale la pena, capito? Alla fine lo fai per passione, come lo faccio io lo faccio, perché chi non fa vuole lo faccio, però se lo fai tu lo fai a livello economico non ne vale la pena. No, non è ripagato, capito? Ho capito. C'è una presa del tempo, sono apparecchi che anche quando li mandi fuori te li mandano in dentro dicendo che non si possono fare, poi invece si possono fare. È perché non vogliono perderci tempo, non c'è tanto di guadagno per quello che fanno e quindi a conti fatti non li conviene fare. Lo so, ne sono rientrati parecchi anche di radio che non erano riparabili. Io li ho messi a mano e li ho messi a posto, ce n'è un paio faccia se stanno girando che non sono riparati. E l'ho rimesso a posto, ho avuto tempo, ho dovuto ricostruire una parte di circuito perché gli aveva fatto tutto un buco, l'avevo stampato. Giustamente quando escono da lì ti devono dare una certa garanzia, lavori del genere cosa fai? È anche economico, non si trovano i ricambi, quante ore ci devo mettere per ripararlo? Si dicono no, ti può lasciare stare, e quelli te li mandano indietro perché diventa antieconomico. Giusto un appassionato lo può fare, uno che si gioca come me, che ha un po' di conoscenze, allora ci butta del tempo ma lo fa per divertimento, se no non ne vale la pena. Ma tu sai che sei stata pazienza, io l'avrei perso. Io ci passo decine di ore, mi ha attaccato su ogni radio ogni volta che mi entra, prima di, perché poi trovare il difetto, alla fine per quelle ricordino andava in clip in trasmissione, uscendo di testa, alla fine controlla e ricontrolla, ho trovato una corrente negativa e non mi ricordo, stavo leggendo il manual service qualche settimana prima, mi ricordo di questa corrente, sono andato a leggere meglio ed era una protezione che interveniva, vado sulla scheda finale a controllare e c'era un sensore sul finale, a che cosa? Ed era un sensore che non esisteva quello, capito, in origine, l'hanno aggiunto dopo, ma hai capito perché mi dà fastidio mettere le mani a posto, perché poi non sai mai, ed è un sensore che hanno aggiunto che non ci stava, poi non lo so, avrei voluto parlare con chi l'ha fatto perché un motivo c'era, se l'ha fatto no, però perché ho preso, ho eliminato, poi ci ho messo una resistenza al posto di quello, quindi non ho capito, non so il motivo. Magari non avremo la resistenza, ci ha messo quello a posto della resistenza, c'è gente che fa pasticci, guarda, io ho un amico che vorrebbe, c'ha un garage modificato e lo vorrebbe riportare normale, e io gli ho detto non lo so, non c'è nessuno qua che lo fa, perché ha detto che essendo modificato disturba l'antenna del televisore eccetera eccetera, vorrebbe portare alla normalità, ma ha detto facciamo una cosa, facciamo un cambio, poi ci ho pensato in me nuovo, nuovo, già l'hai visto tu come? Sì, l'ho visto, no, ma poi se li modificati bisogna capire chi li ha modificati e cosa hanno fatto, perché se sono fatti bene ci sta pure, però bisogna vedere cosa hanno fatto, ne ho visto alcune modifiche, lui ha... puoi avere che tipo di modifiche, che cosa vuoi dalla radio, però su quella scheda si può fare parecchie cose, da il doppio modulatore, che non è un doppio, quello M80 lo chiamo, io ne avevo uno, non so se ti ricordi, una volta ne avevo uno, che anche se ne avevo fatto poche di cose dentro, ti ricordi che usciva a sparatura, aveva una radio che è incredibile. Già me lo ricordo, sì. Infatti ero papà per Babbo Luigi, da te, questo qua, poi ci ho pensato da sempre di stupido. Ecco, gli avevo aperto lì, gli avevo fatto le mie pagine, ne avevo fatto poco, non me lo ricordo. Ogni tanto spulciavo, leggevo, poi apriamo un attimo, si potrebbe vedere i suoi filtri, che canale leggevo, proviamo un po', poi avevo detto questa mattata che tutti lo fa pagare, ma alla fine era due dio di un cacchio di cose, infatti ne andava bene, ne avevo comprati in quantità di quei cavolo di cose. E l'avevo fatto, cazzo, usciva che era una bomba quello lì, poi avevo modificato il microfono, usciva più forte di questo. Ci credo, non lo ricordo, io mi ricordo anche quello che usavi quando andavi a lavorare, che uscivi, che arrivavi 9.5 sempre, tutto il viaggio era 9.5, non si muoveva la lancetta era 9.5. Quello era un, ma un baracchino del cavolo, quello era un... che si trova, però l'avevo modificato, poi gli avevo fatto un vari 100 watt, l'avevo fatto, non mi ricordo che gli avevo fatto, però usciva forte, quello usciva bene, forse mi lavoro bruciato, non mi ricordo, però usciva bene, era sempre fisso, te lo ricordi? Io al signore non si muoveva, infatti dicevo, ma Fabio prendi io stai, no, cioè, mi pare che usciva con 100 watt, roba del genere, era una bomboletta. Ecco, la Fayette 40 canali, quella Fayette, quello tutto nero che rimaneva, mi pare proprio un Texas, la Fayette Texas, sì, perché sono su internet che me lo guardo, è forse la Fayette Texas. di splatter, solo in casa non fa tenere, poi non mi splatter, ma fuori già si può mettere, ma in casa. In casa no, io se era quello lì, sì, il Texas 40 canali, quello l'avevo regalato a un mio collega, io non me ne faccio, avevo regalato a un mio collega, la Fayette Texas, era bellino, eh. E niente, ti faccio compagnia quando andavamo a volo, te lo ricordi che ti facciamo compagnia sino a quando parcheggiato? Sì, prima di prendere poi la patente, poi ho preso la patente, perché io poi avevo smesso per un bel anno, poi avevo ripreso, e poi una volta che avevo ripreso ho deciso anche di prendermi la patente e via. Adesso c'è uno di questi, sto terminando, per vedere la foto, ho preso la, che poi è come una 48 dovrebbe, un FM, che cos'è, un Intec FM 5005. O 500S. Ah, forse hai ragione, lo vedo alla rovescia, ce l'ho rovesciato, 500S già. E rovesciato, lì rovesciato perché c'era lì il display, lo smitter che il calore aveva rotto il collo, siccome avevo di quei display, l'ho smontato e gli ho cambiato il, diciamo la, come si chiama, l'indicatore, da S9, S9 più 30. Allora, quell'apparato lì c'ha 34 canali, forzandoli la manopola si spacca una lettera che tiene i canali omologati e va avanti con i canali, però non ti ridà tutti i 40, ti dà assalto. Non lo so, lo sai che non ho provato a vedere quanti canali ha, se mi dici così vuol dire c'ha 34 canali. Guarda Fabio, l'ho avuto io, e a me questo qui me l'ha detto un camionista continentale che è venuto da me a scaricare e gli ho detto che c'avevo quell'apparato, e io gli ho fatto la modifica, ho preso una pinza, gli ho messo uno straccio per non rovinarlo, gli ho spaccato la letta che c'ha dentro, adesso mi dà i canali, però non li dà tutti di continuo. Fa 34, mi pare 38, 40, capito? Mi dava 4 canali, 5 canali. Ho capito, avanti. Ciao, guardi. Ciao Giulio, ben sentito. Ok. Io mi sono appena svegliato, diciamo, ero un passo un lato. Però comunque, adesso non c'ero, mi ho sentito, adesso non per tanto sono svegliato. Giulio, regola anche chi che sta scendo un po' male. Allora passo. Così, va bene così. Adesso c'è una bomba. Tutte le volte che si gira il Mighty Gate, perché basta che superi l'uno, la vignetta addirittura, il puntino dell'uno, incomincia ad andare male, ma così non lo so, così dovrebbe andare bene. Adesso ormai lo conosco e dunque va bene così. Sì, anch'io ho avuto l'FM 500S, ma io il canale 40 l'avevo ottenuto senza bisogno di spaccare niente, già. Accavallavo io fra l'1 e il 2, piano, mettevo la manopola dei canali fra l'1 e il 2 e prendeva il canale 40 tranquillamente, senza nessun problema. Poi per il resto avevo fatto una modifica dentro, sempre sul commutatore dei canali, avevo spostato un filo perché avevo letto in una rivista la modifica che si doveva fare, ho spostato questo filo, poi tramite il potenziometro della NL, se ricordo bene, e ne ho diventate 52 canali, da 34 ne ho diventati 52. E cioè dopo il canale 23-24 che fosse, ne avevo, sembrava una quindicina di sotto, dai, canale sotto, dai, Fabri. Ho capito, poi ce l'ho lì, non l'ho acceso, non l'ho provato praticamente, volevo vedere un paio di cose, lo vedrò con calma, poi c'è quell'altro lì, mi stava prendendo a fare modifiche, ma alla fine le butto, non ho tempo, no, non ho voglia. Va bene, è così, va bene, comunque adesso io sto provando questo apparecchio che ho terminato da un po', lo sto usando al posto del mio 40, questo 40 sto usando questo, per vedere come va, e sembrerebbe che vada bene, infatti adesso continuo a usarlo un po' io, e poi mi sto dicendo l'ho preso a Riccardino, così lo faccio usare a lui e vediamo se continua ad andare bene. Voglio che qualcuno lo usi per un po', e sia il 27 che un po' in manda, che lui so che sale un pochettino su per fare qualche collegamento, e così vediamo come va. Così dopo una quindicina, ventina di giorni che se va tutto bene, sono sicuro che non c'ha altri problemi occulti, perché questi apparecchi quando li prendi, che non li conosci, li metti tutti a posto, lo provi tutto e va bene, sta andando, però magari usandolo 15-20 giorni ti rendi conto se non sa fare qualche cos'altro, sai, con un'alimentazione strana, qualche cosa che poi lo fa impallare nuovamente, non lo so, e quindi bisogna prenderli e usarli, a parte che gli fa solo bene che rimangano accesi. Ok, no, sta andando bene la voglia, sta andando bene sia del radio che di segnale, il segnale sta arrivando 9:15 qua, per cui poi la radio è buona, non c'è problema, ultimamente bene, avanti Gianni. Ciao Giulio, Gianni. Avanti. Ha detto, ciao Giulio, Gianni, ti volevo dire, c'era un'ulteriore modifica per il 500S, fatta non da me, che ti dava il canale dal 30 al 39, spostavi una levetta che sacrificavi, mettevi dal 10 al 19, corrisponeva al 30 al 39, poi per avere il 40, come ha detto Giulio, senza modificare nulla, mettevi tra l'1 e il 2, trovavi proprio una posizione particolare e ti usavi anche il 40. Vai Giulio. Sì, ma io ce l'ho avuto per anni, ce l'ho avuto il 500S, figurati, e dunque appunto quello che ti sto dicendo, perché lo conosco molto bene, lo conosco, poi l'avevo dato mio fratello, che lui lo utilizzava in negozio, perché aveva il negozio delle bombole, la moglie lo usava in negozio, il 500S, poi gli avevo dato un altro baracchino e anche un'antenna e ce l'aveva nel motocarro, e dunque gli passava gli ordini, gli passava per la distribuzione delle bombole, gli passava tramite il baracchino, la moglie, cioè mia cognata, a mio fratello. Sì, ma è così, infatti, non c'è bisogno di spaccare niente, assolutamente, perché quando spacchi hai perso praticamente l'originalità del baracchino. Come ho detto, fino al 39 arrivava benissimo, tranquillamente, dopo aver fatto questa modifica col filo che avevo spostato, e più accavallavo e prendevo il canale 40 tranquillo, senza nessun problema, non si spostava niente, era perfetto. E nella manopola dei canali all'interno avevo spostato un filo dalla sinistra, l'avevo spostato sulla destra del commutatore del canale, perché l'avevo letto la modifica su circuito elettronica, mi sembra che fosse, se ricordo bene, perché aveva l'integrato 7820, mi sembra, 7810, adesso non mi ricordo più, e quella modifica andava bene per tutti gli apparati che avevano quel tipo di integrato lì, per cui l'ho fatto e avevo ottenuto 52 canali. Ok, avanti Fabri. Sì, oggi, vabbè, poi voglio dire, per quello che si usa oggi, sono più che sufficienti anche quei canali, tanto non si va più su. Adesso ho un cellulare, adesso finirò di controllarmelo e poi vediamo un po', non lo so, cellulare lo devo vedere, dai, non ne ho voglia. Non ho voglia, la verità. Avevo un altro apparecchio da modificare, ma un po' mollato, perché non ho voglia più di fare. Inizia a esserci caldo, anzi la verità, ho già aperto un po' le finestre, si sta bene, non c'è una bella arietta fresca, non so fuori, infatti adesso vi saluto tutti, adesso inizio a prepararti e me ne esco fuori, vado a mangiare qualcosa fuori, non ho voglia oggi, che poi domani mattina devo lavorare presto. E riprendiamo il tram tram di lavoro e devo lavorare forte per tutto il mese sino a fine luglio, che poi andrò in ferio e quindi avrò poche giornate di riposo. E va bene, dai, un saluto a tutti, grazie delle quattro chiacchiere, ciao, un saluto circolare a tutti quanti, dai, io passo il microfono attimo per i saluti e poi spengo tutto. Riprendi Marco. K Fabri, dai, buona serata, buon tutto, buon trabacco per domani e sentiamo le prossime. Vai Gianni per i saluti. Sì, allora, ciao Fabrizio, dai, buona serata e avremo tra poco per domani, dai, ci sentiamo alle prossime. E avanti Giulio. Ok, ciao Fabri. Ben ascoltato, alle prossime, dai. Sperando di riascoltarci presto, ciao ciao. Ok, è così già, l'avevo fatto appunto con la modifica sul 500 e devo dire che quel baracchino a me mi soddisfava, andava molto ma molto bene, avevo fatto tanto di quei collegamenti fuori che non finivano mai, anche la mattina presto, mi ricordo allora quel periodo c'era una ragazza e un QSO sempre da Brindisi, io tutte le tantissime mattine io parlavo con questo gruppo di persone e soprattutto con questa ragazza che c'era lì a Brindisi, per cui posso raccontarti, posso dire, ti posso assicurare, ho fatto centinaia e centinaia di collegamenti, andava molto bene, veramente. Va bene, riprendi già. Sì, lo so perché l'ho buttato anch'io, siccome mi hanno spaccato il wifi, me l'hanno rubato dalla macchina, l'ho buttato anch'io. E niente, a me con questo camionista che era venuto da noi a scaricare questo treno, ce l'aveva uguale, l'ha fatto quello al mio, se c'è la modifica gliel'ha fatta, no, che modifica? E lui mi ha detto, guarda, basta che tu prendi una pinza, forse appena la manopola dei canali, c'è una linguetta in plastica che si spacca, fa da blocco, si spacca quella linguetta e i canali vanno avanti. E così avevamo fatto, infatti il risultato di uso. Ha funzionato la studio, però vabbè, diciamo che prima i canali si usavano, adesso cosa ti dà tutti, cioè dice il 23 sei un signore. Sì, beh certo, oggi non c'è più bisogno di fare queste modifiche così, prima si facevano perché giustamente i canali erano quelli limitati, cosa avevi prima, al massimo avevano 46 canali perché c'erano i baracchini anche 46 canali, ma niente di particolare. Non mi ricordo, facevo anche dei collegamenti tutte le sere, mancabilmente, sia d'inverno che d'estate, giornate calde, giornate piovigginose, sempre, con una ragazza dell'isola d'Elba, io e Ivan di Usilo, il venditore di mobili, credo che fosse un rappresentante o avesse il negozio di mobili di Usilo, Ivan di Usilo. E ci sentivamo tutte le sere, mancabilmente facevamo QSO a 3, il segnale basso naturalmente, ma dall'isola d'Elba, addirittura parlavo con quella ragazza, io e Iva, tutti i santissimi giorni, con la Grand Prix che avevo, allora abitavo nella casa, avevo la Grand Prix sulla ringhiera, attaccata sulla ringhiera, c'era il palo della televisione, no? L'antenna della televisione, e in punta all'antenna della televisione ci avevo messo la Grand Prix dell'ALM. Evidentemente c'era qualche varco abbastanza favorevole e riuscivo a parlare con questa ragazza in qualsiasi momento, qualsiasi giorno che io volessi, ti ripeto, tutte le sere, immancabilmente, per anni, non per un giorno, per anni, andavamo sempre io in varco e questa ragazza che non ricordo più come si chiama. Vai Marco. Yeah. Sì, io allora nell'86 quello l'FM500S l'avevamo preso proprio per la concessione, poi come l'abbiamo cambiato, vabbè, avevamo preso altri apparecchi simili e quello mi è durato funzionante fino ai giorni d'oggi, l'avevo regalato a Pomponio, naturalmente gli ho dato il microfono originale, la staffa originale con i pomelli, è il cavo d'alimentazione originale, mi pare, qui lo dico, quello nego, che avevo addirittura la scatola originale dall'86, figurati. Invece ho notato che sui forum vari, anche tipo Roger K, ma anche su eBay, molti vendono questi apparecchi di quegli anni, no, apparecchi di tutti i tipi di quegli anni, regolari, però puntualmente microfono non originale, cioè microfoni raccattati qua e là, senza staffa, senza pomelli, con i cavi di alimentazione magari non originale oppure saldato dentro, cioè delle porcherie. Io quegli apparatini, almeno quelli venduti, li ho dati sempre con micro originale, per quanto vile fosse, perché era una schifezza micro originale, staffa, pomelli e il cavo d'alimentazione. che poi una rogna mi trovare la staffa adatta a certi tipi di apparecchi, cioè se la vai a comprare ti costa più del, quasi del baracchinetto stesso di quegli anni. Vai Giulio, sì, vai. Ok, sì, e poi noi non parliamo di quante volte ho collegato Felice.